Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Come avevamo anticipato qualche tempo fa, dal 1 luglio entrerà in vigore in via sperimentale e fino a fine 2015 la nuova tariffa elettrica D1, la cui principale caratteristica è la linearità, cioè il costo di una unità di energia è sempre lo stesso e sempre uguale indipendentemente da quanta energia consumate. Infatti le crisi energetiche degli anni 70 ci avevano lasciato in eredità tariffe fortemente progressive che servivano a colpire gli sprechi e aiutare le fasce più deboli, ma che oggi finiscono per penalizzare di più proprio le famiglie più povere e numerose. La nascita di questa tariffa la dobbiamo però soprattutto al lungo lavoro ai fianchi da parte di varie associazioni, tra cui il COAER, che riunisce i costruttori di pompe di calore, cioè quegli apparecchi che sono in grado di estrarre calore dall'ambiente esterno anche quando è freddo e usarlo per riscaldare case, condomini, eccetera eccetera. Le pompe di calore elettriche, ricordo per la verità ci sono anche quelle a gas, erano infatti e sono tuttora fortemente penalizzate dal sistema tariffario in vigore, mentre possono offrire un forte contributo sia all'efficienza energetica che alla riduzione delle emissioni inquinanti. Ora però, grazie alla D1, le cose stanno per cambiare. Fino a che punto? Ce lo facciamo spiegare dal segretario generale del COAER, Giampiero Colli. Buonasera Colli. Buonasera a lei Melis e a tutti gli ascoltatori. Allora, ci ricordi un po' gli estremi di questa tariffa di 1 rispetto alla di 2 e alla di 3, soprattutto cosa cambia per chi usa pompe di calore oggi per riscaldarsi con questa tariffa oppure pensa di farlo? Cambia per il semplice fatto che con forma sperimentale e limitatamente in questa fase agli utenti residenziali che hanno un sistema di riscaldamento con pompa di calore, questi utenti potranno godere di questa tariffa sperimentale, la cosiddetta D1, che in realtà rispetto alla D3, che come lei ha già accennato è una tariffa progressiva, quindi il costo del kilowattora aumenta molto rapidamente con i consumi energetici. Esatto, invece questa tariffa di uno che esiste, perché in realtà è la tariffa che esprime il reale costo del servizio di energia elettrica, non è mai applicata perché poi sappiamo che ci sono sempre o maggiorazioni o sconti in Italia, ma mai il costo dell'energia. Certo, certo, quindi la differenza in termini concreti, tenendo conto che i consumi della pompa di calore con l'attuale D3 si sommano tutti sugli scaglioni più alti e quindi si arriva a pagare il kilowattora elettrico per la utilizzata pompa di calore 32 centesimi, con la D1 sarà intorno ai 21 centesimi per kilowattora elettrico. Ecco, quindi mentre prima uno si metteva una pompa di calore elettrica in casa, faceva del bene all'ambiente, riduceva le emissioni di inquinanti di CO2, ma alla fine pagava una bolletta elettrica analoga a quella che pagava prima col gas, adesso certo, con la tariffa di uno quanto si risparmia? Facciamo un esempio, prendiamo un appartamento di 100 metri quadri, il consumo 120 kWh metri quadro anni, diciamo una classe D, con una caldaia spenderei circa 1750 euro all'anno tra riscaldamento e casa sanitaria. Se applico la tariffa di 1 arrivo a spendere meno di 1200 euro con un risparmio di oltre 560 euro, meno il 32%. Quindi 32% in meno, su quanti soldi io tiro fuori? Io prima li pagavo di gas, poi li pago di elettricità, ma complessivamente spendo il 30% in meno di euro, diciamo così. E questo dovrebbe essere convincente per l'utente, sicuramente. Certo. Mentre prima con la D3 il risparmio era, voi l'avete calcolato, ridicolo. Era ridicolo, intorno al 5-6%, assolutamente ininfluente sostanzialmente. Mentre c'era la tariffa di 2 che era già lineare, ma era un complicatissima, no? Qual era il problema lì? Era la BT in realtà, non era la D2, era la BTA che viene applicata ad esempio anche ai condomini. C'era il problema della complessità del doppio contatore, due tariffe e poi anche di dover tirare una linea dedicata al secondo contatore. Grazie Giampiero Colli. Buona serata. Buona serata anche a voi. Rapidamente per chiudere, per rendere del tutto efficace questo intervento, bisogna uscire dalla sperimentazione al più presto e confermare nel lungo termine questa tariffa, oppure gli investimenti si fermeranno subito. È necessario semplificare ulteriormente l'accesso a questa tariffa e soprattutto consentire l'accesso alla D1 agli impianti in cui la pompa di calore non è l'unico sistema di riscaldamento, ma quello prevalente. E in moltissimi casi, soprattutto nei climi freddi, infatti accoppiare una pompa di calore e una caldaia per soddisfare i picchi nelle giornate particolarmente gelide è la soluzione economicamente ed energeticamente più razionale. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.